telefono, quella stasera però non hanno fatto pagare un caffè. 2,10 euro. Sono proprio tempo per ricordare. Non sapevo se ride o se piange. Dove? Ma buono per il barile, che fanno? Dico 50%, ma il 30% in più di quello che è. Grazie.